Ore 7 minuti. Ore 7 minuti 0. Aia. Una buona giornata dalla voce dell'Ariele. Eccomi qui, pronto come al mio solito a iniziare la diretta del programma intitolato Pane, Burro e Rock and Roll. Inizio subito mettendo le mani avanti. È stato un lunghissimo weekend che in realtà non è ancora finito, quindi tiro dritto fino alle 9. Vi va di venire insieme a me? Dai, salite pure, il viaggio è gratis. Pane, burro e rock and roll, la nostra sigla, la tua colazione rock, puntata 132. Pane, burro e rock and roll, la situazione è sotto controllo. Quasi, quasi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Una buona giornata anche al mio fedele regista Spadino, e invece se l'è dormita un po' più di me, quindi spero nel tuo aiuto, caro Spadino. Una Milano ancora rinchiusa nell'oscurità e che porteremo, ripeto, se ce la facciamo, fino alle 9 del mattino. Uno dei nostri tormentoni è gli afai o gnafai, ecco, oggi punto più al secondo. Sicuramente correrà il mio aiuto Roberto Fricantoni. Ehi, allora stiamo veramente in una botte di ferro. Cosa ne combiniamo oggi, tranquilli? C'è una scaletta bella ricca con tutti gli appuntamenti ai quali abbiamo iniziato ad abituarvi sotto la formula di pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. Benvenuti. Ehi, hey. Inner City, the jam. Fortuna che c'è il buon rock and roll a tenermi su anche stamane. Se siete come noi, insomma, che andate a iniziare la giornata lavorativa, un abbraccio, ma un abbraccio anche se come il primo SMS che ricevo. Siete sotto le vostre coperte e quest'oggi di lavorare non se ne parla, insomma. Il servizio è un po' per tutti, qualsiasi cosa voi stiate combinando, anche qualsiasi cosa stiano facendo quei signori che, anche io avevo anche detto che Spadino era messo bene quest'oggi, quei signori che stanno con una gru, stanno salendo al lampione, vanno su col lampione? Non sul nostro però, non preoccupatevi, il nostro lampione crepuscolare è al sicuro, ma vanno su quello dell'altra strada. Chissà cosa gli fanno. Vi terrò aggiornati e so che ci tenete agli aggiornamenti minuto dopo minuto dei nostri lampioni qui in via Vittor Pisani. Dagli studi di Rock FM vi ricordo le coordinate, volendo partecipare oggi ce n'è di bisogno del vostro apporto. Un numero di SMS che è 335-100-7777 e poi anche la linea di contatto attraverso la quale rintracciamo anche amiche ed amiche da sentire poi a telefono con le loro storie, i loro compiti e quant'altro. Era decidere anche chi chiamare oggi, ragazzi, Redazione, sostenetemi oggi, Una casella di posta elettronica? Ariel@radiorockfm.com. Ed ora musica. Music, John Miles. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world, music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. Lo so, non potrei affrontarla questa nuova dura settimana di radio senza il mio rocker di riferimento. Entri nello studio, dia il buongiorno al suo pubblico, caro Roberto. Buongiorno, benedizioni a tutti. Li sta benedicendo con la mano, io posso vederlo. Sì, me dà un anche a me veloce. Naturalmente, la benedico Ariel, benedico tutta la redazione e anche il nostro stagista stacanovista Isaac Rizzi. Una bella buon benedizione. Buon lunedì anche a te. Anche a Spadino, sì, a qua, tutta la redazione, lunedì, Antonella, Francesca. 9 Paola, novembre e Simona altre, sì, e tutte le altre. Facciamo un almanacco del giorno che fu? Naturalmente no. 1979 era il 19 di novembre. Chuck Berry, se lo ricorda? Yes, questo funambolo del rock and roll, questo Totò molto più alto però sì, di statura, che si lanciava in queste esilaranti performance di rock. Ecco, in realtà nella giornata di oggi del 79 viene rilasciato dal carcere californiano di Lompoc Prison Farm dopo aver scontato 2 mesi di condanna per evasione fiscale. Ma queste sono cose che in Italia sono all'ordine del giorno, ne siamo abituati. Effettivamente tutti scontano almeno 2 mesi per evasione fiscale in Italia. Altra notizia musicale era il 1990 quando la National Academy Recording Arts ritira il Grammy Awards dato ai Milli Vanilli. Sa colpo perché? Di scena, sì. Colpo di scena, perché me lo dica, era perché? Era stato dato per la canzone Girl You Know It's True e viene ritirato dopo che i due componenti Rob Pilatus e Fabrice Moran ammettono che non erano loro le voci sul disco e neanche quelle dal vivo. E tutto il pubblico insieme. Però carini a fare questa truffetta. Sì, ci hanno provato, però hanno ridato il Grammy. Passiamo al 1998, lo scandalo Lewinsky. Lewinsky, colpo di scena. Sì, eccolo qua. Abbiamo lo scandalo Lewinsky. Sì, ovvero? Il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti degli United States of America inizia le audizioni per l'impeachment contro il presidente Bill Clinton. Nella sala orale, ovale. La prego, chiudiamo, con una notizia del 98, il ritratto dell'artista senza barba di Vincent Van Gogh viene venduto all'asta per 71 milioni di dollari e mezzo. Una bella cifretta. Sì. Senta Ariel, avrei in cantina un quadro intitolato Ritratto dell'artista con barba. E chi è l'artista? Anche lunga. È firmato da Rosario Erpatacaro. Sì. Pensa che possiamo piazzarlo. Guardi, io rinuncio volentieri. Magari Isacco. Beh, senta, 71 milioni e mezzo di dollari. Facciamo meno. Chiediamo un po' meno, non so, 100 euro. Anche 75. Sì. È andata. 100 euro. Grazie mille. Un affarone. E me, che c'è? A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Eli, my boyfriend's back." Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just a Juliet. come up on different streets. They both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet, when we made love. Do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Guarda che non avrò dormito, ma la chitarra con la bocca la so suonare sempre. Sono sempre preparatissimo a qualsiasi tipo di assolo. And love struck Romeo, sing the streets a serenade. Laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe. Romeo and Juliet, Dire Straits, 7:20 minuti primi di un lunedì 19 novembre, a questo punto celebrato anche come almanacco del giorno che fu. Vi ricordavo delle coordinate, come al solito, che gentili che siete, eh? Siete pronti, sempre pronti a dare una mano a PBR. Un saluto ad Andrea che richiede strombazzata. Cazzo, oggi non ce la faccio parlare, è dura, eh. Strombazzata per prima giornata del nuovo lavoro. E allora, stai in una botte di ferro. Viva Francè! Beh, ci sta che quest'oggi, tra l'altro, abbiamo il collegamento con Francè. Sembra di sì, quindi resta con noi. E ci contatteremo anche quest'oggi il nostro piccolo radioascoltatore di riferimento. Un abbraccione a Gianfra. SMS con un altro detto. Un detto al giorno. Grazie, al 335-100-7777. Gli uomini, così recita, si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I costruttori concludono il loro lavoro e presto o tardi sono colti dalla noia, quelli che piantano sono soggetti a piogge e tempeste, ma il giardino non cesserà mai di crescere. Hai capito che roba? Filosofici stamane, bene, molto bene. Quest'oggi potrebbe accadere di tutto, anche

lavoro, impegni e finalmente perché ti vuoi bene. La tua colazione rock in diretta fino alle 9. Restate con noi, ci tiriamo per le orecchie. Con pane, burro e marmellata inizia la giornata. Aggiungi rock and roll, diventa una figata. Le nostre coordinate, come sempre, un SMS 335 100 77 77, e la nostra casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. pochi secondi di pubblicità e si torna con voi, ok? State lì, non andate.